La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Per fare un elogio dell'esibizionista, no, un momento, esibizionista in senso specifico, come era un tempo, adesso tutti sono esibizionisti e vogliono mostrare anche i loro orrori, male, bene, schifezze, buboni, tutto si vuole mostrare. No, io vorrei parlare del caro antico esibizionista, quello delle barzellette e anche della realtà che apriva l'impermeabile e si mostrava. Cioè, io non racconto mai barzellette e detesto ascoltarne, però questa era molto. Mi piacciono soltanto quelle che sono tratti di letteratura. Per esempio questa dell'esibizionista al parco che spalanca l'impermeabile e immediatamente la signora che lo vede fa un urlo terribile. E lui, come se parlasse, non so, di un gattino amato, di un cucciolo, di un animale domestico, abbassa gli occhi mortificato e dice: e lo guardi almeno. Ecco, qui c'è una tenerezza. L'esibizionista da cornicione si apparenta agli angeli, con le sue ali spiegate, l'indice che segna un punto. Cherubini, serafini o troni, l'assoluto si addice a chi vola sulla furbesca modestia e si libra sulle sciocchezze del mondo ad asta, vela, astro, spiegata. Nella vita l'esibizionismo è lecito, purché si abbia qualcosa da esibire. È deprecabile l'autolesionista che, non avendo nulla da dire, riempie vanamente di sé industrie, librerie, case, TV e infine menti. Questa si chiama, ne conosco tanti, occupazione abusiva di suolo privato e pubblico e definitivamente di suolo mentale. L'esibizionismo non va sprecato, è una cosa sacra. È sacro come la segretezza, che è un estremo ugualmente insopportabile. Vorrei ricordare Mick Jagger. Lui seppe vivere il successo come esibizionismo elementare, come un indiscutibile ingresso nell'irresponsabile. Infatti, lui sapeva meglio di chiunque che l'unica infanzia è il successo. E infatti giunse a mostrarlo davanti a milioni di persone convenute lì proprio perché lui aprisse il tabernacolo dei pantaloni, accompagnandosi con la voce, che poi a quel punto diventava casualmente la voce, da effetto veniva rimpicciolita a causa, con evidenza. L'esibizionista elementare viene punito con le manette, e questo è anche giusto. Ma quello che dispiace il di più è che venga punito col ridicolo. Perché più onorevole, in fondo, è il rischio dello stupro o dell'adulterio. Meglio essere incarcerati che derisi. Più fragile di chiunque e più generoso, l'esibizionista si offre mani e piedi allo spettatore, si mette nelle sue mani. È un vetro di rara fattura e basta uno sguardo a romperlo. C'è un solo modo per rendere complice il pubblico, per farsi prendere sul serio, ancora una volta, il cornicione. Mettere paura. Le folle d'oggi, questo specchio magico televisivo, consentono con soddisfazione di voltare da comico in tragico lo spettacolo dell'esibizionista, che proprio volesse inerpicarsi per 7-8 piani e di lassù stupire il mondo. Ci sono poi forme più tenere e non punibili, come la beneficenza o la bicicletta. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Era la parrucchiera di mia sorella. La sono andata a prendere una volta e l'ho conosciuta. Io, come prima cosa, le avrei detto: mi vuole sposare? Per me rappresentava la perfezione. Abbiamo avuto 2 o 3 appuntamenti inconcludenti. Io, paralizzato dalla sua bellezza, finché ha fatto tutto lei e siamo finiti a letto. Felice le ritelefono, sempre la segreteria. Non mi ha mai risposto. Capito in un ristorante di lusso e la vedo lì, a un tavolo, con dei signori ricchi e volgari e un altro paio di ragazze dall'aria puttanesca. La saluto. Lei non mi risponde, fa finta di non conoscermi. Quando finalmente riesco a parlarci al telefono, fa la meravigliata, nega tutto, dice che non era lei E aggiunge però che se siamo stati a letto una volta non mi devo montare la testa. E poi con un salto logico mi fa capire che è abituata a ricevere regali. E io non le ho mandato nemmeno un fiore. Ho chiesto a bruciapelo, ma di un po', vuoi essere pagata per caso? E lei si è messa a ridere. Che c'entrano i regali coi soldi? Non so che fare, i giorni passano. Io prima di prendermi una sbandata vorrei capire che tipo è lei e se vale la pena buttarsi. Ma come prima di buttarmi? Tu ti sei già buttato e hai già battuto la testa. Lei non è mare, né fiume, né piscina. Non ti offre acqua per nuotare, ma la sua durezza di ragazza determinata a trarre profitto dall'essere bella. Marchetta per marchetta, io trovo più onesti i soldi. Il valore è stabilito, il mercato è chiaro. E sostituirle coi regali introduce una nota ambigua, fastidiosa, e nasconde un'avidità maggiore e più pretenziosa. Ma questo non c'entra con la passione, che scavalca ragionamento e miserie. Tu hai troppa fiducia nel buon senso, Carla. Così pensi che se ti rendi conto che non vale la pena, ti sarà facile dimenticarla. L'attrazione di lei non è un affare, è un'ossessione e non viene a patti. Tu invece sì, accetterai le sue condizioni, amerai e non sarai amato. Pagherai per un sorriso, per vederla nuda, per vederla vestita. Ma non è colpa sua se tu la ami e lei no. Se tu l'avessi affascinata veramente, forse i regali te li avrebbe fatti lei. Chi si vende si annoia. E se qualcuno riesce a rompere la monotonia di una ragazza da regali, forse, e metto sempre un forse, le fa perdere la testa. Una mia amica, che era come la tua ragazza, a uno che insisteva per averla gratis, rispondeva: fammi innamorare e farò tutto quello che vuoi. Chi è? Sono Elena, Barbara. Elena Somaré, ma lo dovevo immaginare. No, perché io conosco soltanto te che puoi fischiare in questa maniera una canzone come se fossi uno strumento musicale, e lo sei. Quindi sei salita fino al faro? Sì, sono venuta a trovarti, non ci vedevamo da troppo tempo. Beh, senti, devo dirti che sei una persona, se posso usare questa parola in maniera non malevola, che veramente invidio. Perché avere in sé la propria orchestra. Sai cos'è? Quando eravamo ragazzine, fischiare era proibito. Era una delle prime cose che facevamo come rivolta. E io devo dire che ho imparato molto tardi, avevo avuto già 8-9 anni, perché prima non viene. E mi ricordo più che qualche sberla, proprio i severi rimproveri, perché le ragazze queste cose non le fanno. Sì. Tu invece fai addirittura dei concerti. Sì, sì, no, non da molto tempo, perché anch'io fischiavo fin da piccola. Ho avuto la fortuna di avere una mamma che non mi ha, né un papà che non mi hanno bloccata, ecco. Anzi, mio padre fischiava benissimo, per cui si divertiva a fare i duetti con me. Mi esibivano da piccolina. Io, più piccola, a 5-6 anni, facevo già Castadiva davanti agli ospiti a casa, come fenomeno. La puoi accennare? Senti, ma è così musicalmente preciso, ma tu studi con una partitura? A volte anche con una partitura, in realtà immemorizzo tutto. Altre orecchio. Volte come gli uccelli? Sì, sì, come gli uccelli, perché con la partitura studio da pochi anni, perché ho iniziato a fischiare veramente, nel senso fare concerti di fischio, quando ho iniziato a studiare musica, perché ho avuto un incontro meraviglioso. Ho trovato un maestro, cosa che è molto rara, ma un maestro di quelli veri come in Karate Kid, no? Si studia, poi si incontra il maestro. Io ho trovato un maestro, un grandissimo musicista, che è Lincoln Almada, che è un arpista paraguayano, però è di quelli che non sono solo musicisti, sono dei veri sciamani della musica. E lui ha accettato di insegnarmi perché è rimasto affascinato da questa cosa del fischio, e da lì ho capito che avrei potuto passare da fenomeno, perché comunque il rischio nel fischiare è sempre, insomma, il fischio è sempre un po' borderline tra fenomeno da corrida, da pura curiosità, invece utilizzo artistico come strumento di questo, appunto, di questa tua particolarità, ecco, di saper fischiare così. E Lincoln, come ha accettato di insegnarmi, ho capito che avrei potuto fare il salto di qualità e quindi ho iniziato. Fischio è, come dicevi tu all'inizio, lo strumento maleducato per eccellenza. Non si fischia perché è volgare fischiare, è sempre stato così, soprattutto le donne non potevano fischiare perché fischiavano proprio le donne di secondo ordine, oppure nella storia fischiavano le streghe, per esempio, era molto molto mal visto. In molte culture il fischio è considerato la voce del diavolo, non si fischia in ambienti chiusi. L'unica opera lirica in cui c'è un fischio è il Mefistofele di Arrigo Boito, nel quale è proprio il diavolo che entra in scena fischiando. Però adesso posso dire ufficialmente che il fischio è stato sdoganato, non è più la voce del diavolo, al punto che qualche mese fa sono andata a Radio Vaticana e ho fischiato l'Ave Maria di Schubert. Era molto maleducato per le donne, fischiare è impensabile. Il fischio è diventato un po' anche il simbolo dell'emancipazione femminile in qualche modo. Tanto è vero che adesso a un convegno per i 150 anni dell'emancipazione femminile del lavoro della donna sono stata invitata a fischiare addirittura l'inno di Mameli, che fatto da una donna è fischiato e diventa a suo modo un simbolo. C'è stato un personaggio che io amo moltissimo, quasi sconosciuto, però che è stato alla fine dell'Ottocento un personaggio importante per il movimento delle suffragette negli Stati Uniti. Si chiamava Alice Shaw, era una giovane bella donna che aveva sposato un mercante nella provincia americana, adesso non ricordo quale cittadina, ed era un uomo molto ricco ma assai noioso, era un commerciante americano della provincia, era bella, vivace, e ha fatto con lui 4 figli e poi non ne poteva più di stare con quest'uomo e aveva questa dote, sapeva fischiare benissimo. Si portò via i 4 figli con lei e incominciò a girare tutti gli Stati Uniti fischiando e mantenendo i suoi 4 figli fischiando. E divenne così famosa che arrivò a fischiare anche in Europa, alla corte inglese, e ebbe una vita favolosa, amanti, si divertì soprattutto moltissimo e divenne appunto un simbolo, perché una donna che se ne va di casa col marito ricco, già alla fine dell'Ottocento, coi figli, e si mantiene con lo strumento più disdicevole all'epoca per una donna, è stata un simbolo importante. Sono Marilyn Shaw. Altri tuoi colleghi o colleghe ci sono? Ci sono fischiatori. In Italia c'è forse il più famoso fischiatore del mondo, che è Alessandro Alessandroni, che è quello che ha fatto tutte le colonne sonore dei film di Ennio Morricone, che è forse l'unico compositore che ha veramente scritto per fischio, il buono, il brutto e il cattivo. Il vigoroso fischio epico. Che poi è il simbolo del western all'italiana, copiato in tutto il mondo. Poi c'erano spari, pistole, galoppo, cavalli al galoppo, era molto divertente. Poi soprattutto nell'immaginario il western all'italiana è quello, è quel fischio. Morricone, tu pensi a grandi colonne sonore, ma poi ti viene in mente. E Alessandro Alessandroni è un chitarrista, che però ha questa particolarità, fischia ed è il più famoso al mondo. Per il resto i fischiatori nel mondo esistono, c'è anche un festival del fischio. Però dove? Lo fanno un anno in Giappone e un anno nel North Carolina, però è tutt'altra cosa. Ci sei invitata? Mi hanno invitato, ma io non sono andata per un motivo, perché loro fanno una cosa molto diversa da quella che faccio io. Cioè, loro sono... Virtuosismo? Virtuosismo puro, non c'è musica dentro. Fanno delle cose che io non saprei mai fare nella vita. Sono bravissimi, ma è come uno che tira in aria 20 piatti, sono dei giocolieri. La musica c'entra poco? Non c'entra proprio nulla, non è che c'entra poco. Dopo 5 minuti, sì, sorridi un po', però io te lo trovo molto noioso dopo un po'. È un Guinness dei primati, esatto, vocale. Ed è proprio quello che a me non interessa, ecco, vorrei... Ecco, io volevo immaginarmi come tu, che giri tutto il mondo come fotografa, mm-hmm, come poi unisci le due cose, che parentela hanno la fotografia e il fischio? Guarda, dentro di me hanno una parentela molto stretta, per l'appunto, perché è il mio modo di esprimermi, di raccontare quello che voglio dire, che poi magari sono mie sensazioni. In realtà hanno avuto, grazie al Comune di Roma, a Roma, una unione molto stretta, perché io ho inciso questo CD per fischio melodico, che credo che sia uno degli unici mai fatti, non ne ho mai sentiti altri. In occasione, si chiama Il Fischio Magico, e l'ho inciso in occasione di una mostra che appunto si chiamava Il Fischio Magico, che mi ha fatto il Comune di Roma, la Casina di Raffaello, dove erano esposte delle mie fotografie, e nelle sale c'era questa musica, era una mostra multimediale, c'era anche un video. La Casina di Raffaello è un luogo destinato ai bambini, sotto c'è una ludoteca, quindi il fischio è adorato dai bambini, nelle favole si fischia moltissimo, e quindi secondo appunto i dirigenti della Casina di Raffaello questa cosa poteva essere molto interessante per i bambini, soprattutto piccoli dai 5 ai 10 anni, che fra l'altro mi hanno dato enormi soddisfazioni, perché hanno sì, alla fine della mostra, che è durata 3 settimane, i muri della casina erano tappezzati di piccoli post-it, di bigliettini che ho ottenuto tutti con tutti i loro pensieri, e ce ne sono di esilaranti, perché i bambini sono liberi, dicono, ma loro vedevano le fotografie, immaginavano astronavi o marziani che arrivavano fischiando sul nostro pianeta. Poi vedere come rimane impresso nella mente di un bambino, credo che sia la soddisfazione, forse per un artista immagino forse più grande, perché il bambino è creta, no? Per cui anche potergli aver dato un'emozione, speri che possa rimanere per tutta la sua crescita. Ehi Elena, aspetta, che fai, te ne vai? Ma Elena, ma lei è così, come gli uccelli, arriva, si posa, fischia e se ne va. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Abbiamo un figlio di 8 anni. Io cerco di educarlo, ma lui gliele dà tutte vinte, non lo contraddice mai. Il bambino aveva un carattere mite, ci si ragionava, ma adesso sta diventando arrogante e antipatico a tutti, in fondo anche a noi. Ma se provo a correggerlo, mio marito mi ricatta coi musi, quando non mi contraddice apertamente davanti a lui, con conseguenze, come puoi immaginare, disastrose. Mi dice, se ti lasciassi fare tu lo riempiresti di schiaffi, ne faresti un frustrato. Magda. Bene, questa è un'efficacissima scuola di bullismo. E poi, cari genitori giovani, voi non dovete aver paura dei vostri figli. Non sono i vostri giudici, non sono i vostri padroni. Si è passato da un estremo all'altro. Dal gonfiare i ragazzini di schiaffi a questa reverenza nefanda. Io non dico ritornare allo Struwwel Peter, il famoso libro di filastrocche terrorizzanti che minacciavano i bambini, non so, per esempio come più noto in Italia come Pierino Porcospino di Heinrich Hoffmann, che fu tradotto da Gaetano Negri, dove appunto c'è una bambina come Paolinetta che muore bruciata perché gioca coi fiammiferi, oppure Corradino, che sarà orrendamente punito del suo vizio, succhiarsi il pollice. Non dico questo. I poeti tanto ne sanno sempre più di tutti. e quindi vi leggerò la postilla in versi di Pierpaolo Pasolini, postilla in versi alle Lettere Luterane, che uscì da Einaudi nel 1976, poco dopo la sua morte. Si riferiva alla clamorosa autocritica di Benjamin Spock, che prima aveva teorizzato l'educazione morbida, persuasiva, senza mai sfiorare un ragazzo, uno schiaffo, proibitissimo. Poi a un certo punto della sua vita si ravvide e disse che aveva sbagliato, che qualche sberla ogni tanto ci starebbe pure bene. Non parlava certo di maltrattamenti alla Oliver Twist, ma insomma una correzione simbolica ogni tanto. Io mi ricordo una volta, io non ho mai picchiato i miei figli, mai dati schiaffi, però mi ricordo mio figlio mi ha sputato in faccia quando aveva 4 anni. Io subito, non mica ci ho pensato, adesso lo educo, pam, è partito uno schiaffo. Arriva un angelo balbuziente nella poesia di Pasolini, che zagaiava, cioè che balbettava come innocente nunzio. Zagaiava, bambini fa, sveglia, che aspettate, dovete fare sciopero, dai, domani alle 12 dovete incrociare le braccia. Basta con la tolleranza, mannaggia, basta con la permissività. Voi dovete pretendere di obbedire come i vostri papà. La bacchetta, papà, la bacchetta. Per piacere, almeno un po', la bacchetta. Ma a me piace molto di più la seconda parte. Signor maestro, abbiamo visto il diavolo dell'angelo nero come Luciano Sarracino. Gridate, gridate, viva Benjamin Spock, ci fa. Occorre la bacchetta. Siamo stanchi di diventare giovani seri, o contenti per forza, o criminali, o nevrotici. Vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare. Non vogliamo essere già così sicuri. Non vogliamo essere subito così senza sogni. Sciopero, sciopero, compagni, per i nostri doveri. Signor maestro, la smetta di trattarci come scemi, che bisogna sempre non offendere, non ferire, non toccare. Non ci aduli, siamo uomini, signor maestro. Piccola sentivo parlare del mio nonno macellaio, però con un po' di prudenza, perché mia madre era nel frattempo diventata una piccola borghese, aveva fatto il salto sociale, aveva sposato un professore di matematica e quindi si vergognava del suo padre macellaio. Però me lo sono immaginato più volte dai racconti e così ne ho parlato a lungo nel mio primo libro, che si chiamava Memorie malvagie. Veramente si chiamava all'inizio Memorie malvagie del macellaio. Io avevo cercato di pubblicarlo per 3 anni e nessuno lo voleva. E quando poi delle pie dame mi hanno fatto vincere un premio che si chiamava L'inedito e avrebbero pubblicato il libro, mi chiesero di togliere macellaio. E io devo dire, ho ceduto subito, perché non ne potevo più di ricevere le lettere che ti mandano gli editori quando ti mandano al diavolo, che ti dicono che sei un genio della letteratura, però non ti vogliono. E il libro comincia proprio parlando del nonno. Il nonno Umberto sta fermo su una sedia. È molto stanco e arrabbiato, ma cerca di ridere. Al suo fianco c'è il gatto Loli. Il nonno ha una gran testa bella, sotto i capelli foltissimi e spazzola. Sta fermo in salotto, vicino ai gerani, ed è morto da molto tempo. Al cimitero il nonno aveva una residenza più bella, una specie di villa in campagna a 6 posti. Lui ne occupava uno solo, e un lume gli buttava in faccia il fuoco dei vivi e quel profumo di nuore sconosciute. Aspettava nel suo ovale smaltato come un re paziente che riceva gli ospiti. Il nonno non era un re. Non posso dire cos'era. Me l'hanno proibito. Nessuno volle mai bene al nonno Umberto. Nemmeno io gliene avrei voluto. Ma per la sua rudezza, per il dolore che non diventava parole, forse sì. Lo seppellirono alla svelta, senza dirne male. Da allora è la prima volta che se ne parla. Il morto aveva molti soldi in una cassa, di cui lasciò la chiave. Avevo un letto d'ottone, a picco sul torrente, minacciato dalla Madonna che mostra sfacciata il cuore nudo con 7 spade. Il nonno non aveva timor di Dio. Guardava Cristo mezzo spogliato, con le gambe accavallate e dolce e triste, tanto per salvare la faccia. Guardava sua madre la Giudea e prendeva per un braccio la nonna Santina, rovesciandola stesa con una sola mossa. Lei recitava preci velocissime, di cui ignorava il senso. Si irrigidiva e gli dava del filo da torcere. Allora al nonno passava ogni voglia. La ributtava di lato, senza una parola. Lei raddoppiava le preci e guardava senza vergogna l'inguine del Cristo che l'aveva esaudita. Umberto fischiava allora. Un grosso gatto, il gatto Loli, scaturiva dall'ombra di un corridoio senza fine e gli saltava sulla pancia. Era sporco di fango e di gatte. Il nonno lo cacciava sotto le coltri e lo abbracciava stretto. La nonna si lagnava. «Mandatelo via, sporca tutto!» Il nonno stringeva Loli. Era vivo allora e valeva qualcosa. Nessuno poteva metterlo fermo o seduto. Se la nonna insisteva, con una bestemmia secca la metteva a tacere. Fu così che lei cominciò a dannarsi. Quando la conobbi, era diventata cattiva. La nonna Santina non aveva mai amato suo marito, vestito dall'amante il giorno delle nozze. Si presentò al prete ubriaco, con la sua bella veste scura e i segni dell'amore in una faccia senza gioia. Il prete lo benedisse lo stesso. La nonna disse sì a ogni domanda. C'era un corteo di galline e gente robusta sulla strada del paese. Nella foto di quel giorno la nonna era già brutta e lui annoiato, ma aveva bisogno di una donna di casa, una donna seria, senza amore. Lei non tradì mai questo bisogno. Il nonno Umberto teneva bene la famiglia, ma i soldi che dava in casa, guadagnati col suo lavoro, gli misero contro i figli. La femmina, mia madre, quando tornava dalla villeggiatura nei posti eleganti, era atterrita che qualcuno degli amici del mare capitasse in paese a trovarla. Non voleva dire di chi era figlia. Leone, mio zio, diventò pittore ed era bello, ma non chiese mai la donna che voleva per paura che gli rinfacciassero il mestiere di suo padre. Era un lavoro mitico il suo. Giustiziava le bestie. Non con la pistola, come adesso, con un colpo preciso da torero. Tutti gli facevano torto, lo credevano stupido e brutale. Nessuno sospettò mai che ne provasse sofferenza o d'orgoglio. Hanno fatto sparire tutte le tracce di sangue. Il macello è diventato uno studio e in casa c'era penuria di coltelli. Nei giorni di mercato, nonno Umberto usciva col cappello incontro al vento. Le bestie si muovevano come il mare. I loro muggiti arrivavano fino all'osteria dove i senzali andavano a bere. Era lì che si scoprivano il petto per mostrare la forza e spiegavano fazzoletti di molti colori. Il nonno cercava la bestia da uccidere. La guardava negli occhi, e negli occhi delle bestie non vedeva riflesso il campanile come tutti gli altri. Vedeva l'ombra di colpe antichissime e faceva la sua scelta, fino all'ultimo. Un giorno però, mentre lui aveva scelto la sua bestia, improvvisa gli arrivò davanti la gran bestia. Il muro era già rosso, e il nonno brandiva il coltello nel suo coraggio da uomo solo. Umberto Baldassarri, di stirpe contadina, nel 70° anno della sua età, combatté la lotta suprema e forse vinse, come vinceva ogni volta. E la sua gloria era condannata alla solitudine. La bestia scalciava e gli offriva la sua maestosa paura. Erano uguali, altissimi contro le pareti, più alti della loro ombra, che anticipava lo scontro per i deboli giochi di luce di una lanterna che fu rovesciata quando si gettarono l'uno contro l'altro e confusero le loro vite nella morte di uno solo. Una maschera di tristezza li teneva prigionieri. Il nonno cavalcò la sua ultima mandria in groppa alla bestia più bella. Bastava la punta delle corna a sostenerlo. Passarono per il paese che non li vide, abituato a cose ordinarie. Alzarono la testa davanti al podestà e un nobile prete dalle labbra bianche. Sdegnarono le donne, che non seppero fermarsi, e scomparvero lungo il fiume, cercando la notte, dietro la nebbia che li precedeva. Quando lo portarono a casa, non volle parlare, mentre finivano di ucciderlo col fumo delle candele e con preghiere, simili a parole, lanciò un grido terribile. Scapparono tutti, inciampando, e lo lasciarono morire solo, secondo la sua volontà. Dopo 15 anni di matrimonio, la solita storia. Lui si innamora di un'altra. Io trovo la biancheria intima con i segni di... E lui mi dice che noi abbiamo creduto di amarci. Ma in realtà l'amore è quello che sta vivendo con lei. Non bella, non giovane, ma molto, molto ricca e molto, molto simpatica alla sua famiglia. Noi eravamo stati contrastati dai suoi, loro gente in, io figlia del commercialista. Così abbiamo lasciato gli studi, ci siamo sposati e laureati più tardi. Io medico, lui avvocato. Io sono riuscita meglio di lui nella professione e questo ha attizzato il vecchio rancore della sua famiglia. Adesso lui è tornato da me, forse l'ho costretto, ma io non sono più quella moglie. L'unica cosa che so fare è l'amante del mio ex marito. Mi torturo pensando ai loro appuntamenti, ai loro scambi sessuali. A volte ci picchiamo e concludiamo facendo l'amore in modo disperato. Lo psicologo dice che io ho sempre desiderato lasciare mio marito e che fra noi c'è solo dipendenza reciproca. Per liberarmi di questa storia senza sbocco, ho pensato anche al suicidio. Cordiali saluti, M. Cari amici e care amiche, clandestini, sposati e amanti, maniaci sessuali e frigidi, c'è una sola cosa che vale per tutti noi. La misura. Se dimentichiamo che c'è un posto per le cose, siamo perduti, perché dissolviamo la nostra vita nella ricerca di quello che non ritorna. Tu e tuo marito, la grande storia d'amore l'avete avuta. Ed è stolto, forse ottenebrato lui quando lo nega, quando dice che solo con la sua amante ha conosciuto il sentimento vero. Ma che impudente, ma via, non è vero. Si è messo contro la famiglia, ha lasciato gli studi, si è messo a lavorare per sposarsi con te. Allora cos'era? Non era amore. Era, questo è il punto. Era una passione forte. E poi? E poi? Il matrimonio non è l'ergastolo. Se uno si sente attratto da qualcun altro, è meglio che sia sincero, se può. Lui lo è stato. In fondo, con quella frase che rinnegava tutto, quando dice appunto non ti ho mai amato, ho amato solo l'altra, voleva cancellare e rompere. Tu però hai avuto paura. Tu, bravo medico, che sei capace di curare i corpi, hai pochissima dimestichezza con le anime e sei capace di assassinarle. Hai negato la cancrena, hai lasciato che divampasse e adesso ti meravigli se muori. Scusa, ma mi dice che ho pensato al suicidio, ma lo credo bene. Però sarebbe stato più sano pensare invece a un'altra cosa. Per esempio, noi due abbiamo avuto molto. Siamo due pazzi a massacrarci a vicenda per non voler ammettere che siamo entrati in un'altra fase della vita, che siamo altri. Guarda, per uscire dall'inferno basta che esci da casa tua. Lascialo all'altra, che appaga anche la sua nostalgia di una donna del suo ambiente. Non si tengono sui matrimoni col terapeuta o col suicidio a portata di mano. O si reggono da soli o sono già distrutti. Separo dal mio compagno dopo 13 anni e faccio un viaggio con un'amica a casa di amici sposati in crisi. Dopo la partenza, io e lui cominciamo una storia d'amore inizialmente al telefono, in cui ci dichiariamo tutto l'amore che proviamo, progetti, sogni. Ci vediamo a metà strada e lui, in territorio neutrale, mi dice che non può sopportare l'esistenza senza di me. I nostri pochi momenti sono molto intensi e non solo sessualmente. Ho visto quest'uomo piangere quando ci dovevamo separare. Per poter stare insieme a Capodanno ho invitato anche sua moglie a casa mia. Nel frattempo maturo la decisione di lasciarlo. Troppa sofferenza e troppe bugie. Quando lei, in un momento di relax, mi confida che tradisce il marito da ben 18 mesi, con uno più focoso di lui, ma che non lo lascerà mai perché le fa comodo. A quel punto decido di non farmi più da parte, anzi gli racconto tutto, non sopporto che lo tratti come il suo cagnolino. Partono e lui le confessa che ama me. Passiamo tutti un mese di dolori e pianti finché io lo tranquillizzo dicendogli che se vuole può tornare indietro pur di vederlo felice. Lo lascio. Lui mi tormenta al telefono dicendo che è pazzo d'amore ma non riesce a lasciare la moglie. Piange, ma segue come un cane l'altra che continua a prenderlo in giro. È giusto che chi sputa sul piatto dove mangia riceva sempre una porzione doppia? Vorrei che lui soffrisse almeno una piccola parte di ciò che sto soffrendo. Luisa. Ma quanto piangono sti mariti infedeli. piangono con l'amante, piangono con la moglie, piangono col confidente, si commuovono su se stessi, si compiacciono di essere tirati in due direzioni. Intanto tutto resta come prima. Accidenti. Quella che sulla carta sembrava una buona mossa, cioè raccontare che la moglie aveva un amante, si è rivelata un boomerang. Cioè lui si aspettava, il felifrago si immaginava la moglie in lacrime, stroncata dalla rivelazione che lui aveva una storia con te, prossima al suicidio. E di colpo, grazie alla tua rivelazione, ha acquisito ai suoi occhi il fascino della maliarda. E la situazione si è ribaltata a suo favore. Lui diceva sempre di lei poverina, poverina, perché la moglie cornuta si dice sempre poverina. Invece da poverina è assurda al ruolo di messalina beffarda. E questo marito piagnone, che sarebbe passato volentieri sul corpo dell'affranta, poi non riesce a lasciare una che gli mette le corna. Anzi, l'ha vista di nuovo come oggetto del desiderio. Sai cosa penso, Luis? Che forse lei si è inventata tutto, si è servita di te, si è accorta della vostra intesa, è stata al gioco e furba come tre volpi, invece di lacrimare e inveire, cose che rendono una moglie ancora meno desiderabile, ti ha fatto una falsa confidenza perché tu la spifferassi a lui. Ora che se ci pensi è un messaggio provocante, una bella sferzata erotica, non solo a un altro uomo, ma ti dice molto più focoso di lui. Cioè, uno che a letto vale più del marito. Beh, è una sfida. E lui l'ha raccolta. Tu, come un pollo, ci sei cascata e lui l'ha raccolta. Tu soffri, lui gode. Gli hai aggiustato un matrimonio pericolante, hai animato la stanca farsa del loro letto, l'hai fatto tornare rovente questo letto che era tiepido, e tu lì aleggi come un afrodisiaco fantasma. Le coppie sono invincibili. Guai a chi ci capita in mezzo. Mi dispiace per te. Lui non è una vittima, è un contentissimo zimbello ed è anche un professionista delle lacrime. Per questi versi tratti dalla prima elegia duinese di Rainer Maria Rilke, io ebbi una bottiglia d'olio. E i versi erano questi. Lui si trova in una chiesa e sente queste voci dei morti. Certo è strano non abitare più sulla terra, non più seguir costumi appena appresi, alle rose e le altre cose che hanno in sé una promessa, non dar significanza di futuro umano. Quel che eravamo in mani tanto, tanto ansiose, non esserlo più. E infine il nome abbandonarlo, come un giocattolo rotto. Strano non desiderare quel che desideravi, ed è faticoso essere morti. Quanto da riprendere per rintracciare poco a poco un po' d'eternità. Ma i vivi sbagliano tutti, che troppo netto distinguono. Si dice che gli angeli spesso non sanno se vanno tra i vivi o tra i morti. Infine, non ho più bisogno di noi quelli che la morte rapì. Ci si divezza da ciò che è terreno, suavemente, come dal seno materno. Ma noi, che abbiamo bisogno di sì grandi misteri, potremmo mai essere noi senza i morti? Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera. Расплата за ошибки, когда под ребра бьют, работа есть работа.